scherno sopportar perché ma no si farà a questa dura prova veder non so ma si farà che tanto alma mia di rimaner promisi io attenderò. Nascevi tu, nasceva il sole.